Son sempre stata una brava signora, ho fatto il mio dovere ovunque ad ogni ora, mai per niente amata ma molto rispettata, prima mi si attendeva come ospite accettata, ora invece fuggono e urlan di terrore, anche se di me non c'è neanche il sentore, mi simulano spesso, mi guardano tremando, ma solo finché possono spengermi a comando, tremano all'idea di me in mantello ed ossa, eppur non scelgo io quando mandarli in fossa, così vivono male, ma faccia anche gli pare, non li capisco mica, mica mi si può fermare, ma morte alla morte, viva la vita, vorremmo che fosse infinita, così ci droghiamo di medicinali per arrivare ai supplementari, se di là c'è qualcosa oppure anche niente, vogliamo restare qui per sempre. E così resto, stanca e rabbuiata, la falce mia un po' sbeccolata, lavoro ancora ma senza entusiasmo, al massimo a volte un po' di sarcasmo, eppur non son male quando arriva il momento, più del mio avvento è tremendo il tormento, se ci tengono tanto vivessero pure in questo mondo di ingiustizie e di paure, io con la falce porto pace eterna, mia sorella vita con la sua lanterna, non ha pietà alcuna, non conosce giustizia, io tratto tutti uguali, lei come immondizia, ma morte alla morte, viva la vita, vorremmo che fosse infinita, così ci droghiamo di medicinali per arrivare ai supplementari, se di là c'è qualcosa oppure anche niente, vogliamo restare qui per sempre. Morte alla morte, viva la vita, vorremmo che fosse infinita, e così ci troviamo, se di medicinali per arrivare ai supplementari, se di là c'è qualcosa oppure anche niente, vogliamo restare alla morte, viva la vita, e vorremmo che fosse infinita, e così ci droghiamo i medicinali per arrivare ai supplementari, se di là c'è qualcosa oppure anche niente, vogliamo restare qui per sempre.